L'estate bolognese continua e continua con tantissimi concerti che a noi piacciono molto, e questa settimana c'è un artista che abbiamo visto un paio d'anni fa a Genova al Balena Festival, ci è piaciuto tantissimo e siamo felicissimi che sia finalmente a Bologna al Bonsai. Sto parlando di Cosmo. Ciao Cosmo. Ciao, ciao, eccomi qua. Come stai? Bene, bene, ho appena fatto yoga. Sì. Sei pronto per arrivare a Bologna? Perché qua la situazione, non so come è Ivrea, ma qua è veramente rovente. Ma diciamo che noi abbiamo avuto una sfiga di un tempo finora... No, ecco. Sono pronto. Perfetto, allora siamo tutti attrezzati, c'è ventilatore sul palco. E allora a posto. Beh, insomma, anticipavamo che appunto la data sarà stasera e sarai appunto al Bonsai Garden. Ovviamente questa intervista noi la stiamo facendo qualche giorno prima, ma vogliamo proprio prepararci alla data di stasera. Questa data arriva dopo un tour indoor, perché ricordiamo che il tuo ultimo disco è uscito a marzo e ha visto alcune date, insomma, che sono arrivate anche a Bologna, all'Estragon, e che adesso invece avvengono all'aperto. Intanto, com'è andata la presentazione di questo disco e se sei contento della risposta del pubblico? Molto. Infatti io dico sempre che veramente siamo al top della forma dal vivo, poi c'è un rapporto con il pubblico molto molto bello, molto profondo, diciamo. È una cosa che mi mette molta tranquillità riguardo al futuro, nel senso che sono sempre più convinto che ci sta stabilendo una sorta di rapporto a lungo termine, non so come dire. C'è gente che piange ai concerti, oltre che ballare, piangiamo anche noi a turno ogni tanto sul palco. Noi ti abbiamo anche visto a Genova ed effettivamente è stato anche molto difficile raccontare cosa abbiamo provato al tuo concerto, perché è sicuramente un concerto che muove tante cose, anche a livello di emozioni, insomma, arriva molto al pubblico, secondo me, quello che tu stai facendo sul palco. Proprio riguardo questo ti volevo chiedere una cosa, perché leggendo anche le interviste che hai rilasciato a seguito dell'uscita di Sulle ali del cavallo bianco, che ricordiamo è uscito appunto quest'anno a marzo, hai detto: la mia musica ha un linguaggio che non tutti capiscono. Quello che cerco di fare con Alessio è qualcosa che non esiste, una ricerca tutta nostra. Tuttavia abbiamo il forte desiderio di essere diretti e sinceri, di fare entrare in questo viaggio altre persone e di empatizzare. Ecco, è quello che effettivamente siete riusciti a fare, e ti chiedo un po' come avete fatto questa ricerca di questo linguaggio da utilizzare. Cioè, mi torna tutto, questa cosa qui ovviamente l'avevo detta. Diciamo che mi sento sempre di più in questo, diciamo, sottile linea di confine, no? A camminare su questa linea di confine tra quello che deve essere più personale, sperimentale possibile, libero, e quello che vuole essere comunicativo, no? Quindi arrivare, cioè non mi interessa fare cose che piacciono solo a me o una nicchia di persone come me, mi piace riuscire a portare certi, non so, certi linguaggi anche fuori da chi li può immediatamente cogliere. E con Alessio abbiamo lavorato quindi sia cercando di stupire noi stessi, quindi trovando le soluzioni a volte bizzarre o comunque il più possibile non già sentite, che non sappiamo già sentito, e sì, in realtà guardandoci in faccia e dicendo: questa roba deve arrivare dritta in faccia, no? Perché siamo convinti in realtà che il pop ha molte più possibilità di quello che spesso gli si dà, possibilità espressive di linguaggio, tipo ultimamente in Italia chiunque ascolti il pop mainstream, che è un po' quello che bazzico, no? Se non, anche se non al 100%, però diciamo i colleghi del pop non è che si concedono tutta questa libertà di sperimentare, non so come dire, ci sono due o tre soluzioni che sono sempre ritenute più sicure, si sta su quello. Le radio sono convinte che quello sia quello ciò che va, molti addetti ai lavori, no, per cautela rimangono allacciati a certe cose. Io invece sono convinto che sia possibile una scommessa diversa, cioè di fare una musica, ad esempio, che metta dentro una matrice sperimentale con una canzone molto più classica, no? E questa cosa all'estero spesso succede, anche fa anche numeri grossi. Giocare tra questi due mondi qua è l'unico idea di pop che non mi annoia, ecco. Perfetto, allora direi che ci hai incuriosito molto sicuramente su quest'album e sulla lavorazione. Se hai voglia, ti va di scegliere una canzone da far ascoltare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, ti chiederei di pescarne proprio una dall'ultimo album. Ultimamente mi è salita molto bene Gira che ti gira. Perfetto, l'ascoltiamo e torniamo da te. Speriamo di ascoltarla anche sul palco stasera, in realtà, questa canzone, perché ricordiamo che stasera sarai a Bonsai, quindi al Parco delle Caserme Rosse, per una data un po' rovente qua a Bologna, però insomma una data data che ci farà sicuramente ballare. Quello che ti vorrei chiedere anche, insomma, il tuo primo disco è uscito nel 2013, l'ultimo nel 2024 quest'anno. Sono passati quindi 10 anni abbondanti di carriera dall'inizio del progetto Cosmo. Cosa è cambiato in questo percorso? È andata come ti aspettavi? Ci sono state delle sorprese che erano al di fuori di quello che avevi pensato? Ma all'inizio sicuramente non mi aspettavo che poi andasse bene così, eh. Quando io prima ho suonato per anni con un gruppo che si chiama Drink to Me, in cui cantavamo in inglese, in cui eravamo soprattutto in quel giro indie alternativo, no? Quindi c'era un mischione tra post-punk, noise, pop. E quando ho fatto Cosmo, sì, sicuramente era un progetto diverso, più pop, però non mi aspettavo tutto questo qui. Poi quando ho iniziato ad avere delle attenzioni da parte di qualche major, qualcuno ha iniziato a dirmi guarda che andrà bene. Poi il primo disco non è andato bene come si aspettavano, quindi nel momento in cui non mi aspettavo più che andasse bene, anzi ero convinto, è uscito L'ultima festa, che invece mi ha portato abbastanza in un mondo che non ho ancora mai esplorato, no? Quindi andavo in giro a suonare, incredibilmente arrivava pure gente, però il fatto che di essere sicuri che ci sarebbe stato il pienone non l'avevo mai vissuto. Poi vabbè, un'altra sorpresa che c'è stata è quella della pandemia, perché tra l'altro io mi ero fermato dopo L'ultima festa cosmotronica, avevo tirato veramente come un matto, quindi volevo fermarmi, ho detto adesso mi fermo, per il prossimo disco mi voglio fare tutto con calma, quindi non ho fatto niente per un anno, nel momento in cui ho detto adesso mi metto a lavorare è arrivato il Covid. Però devo dire che questo mi è piaciuto e mi è servito in realtà. Ho avuto il tempo di maturare altre idee, sai, anche verso se stessi, verso me stesso, no? Riguardo quello che voglio fare, quindi in realtà per me il post pandemia è stato un nuovo inizio positivo, in cui mi sento molto più a mio agio nella musica, negli arrangiamenti che faccio. Sul palco, l'ha visto anche tu, Urbana Festival, io da quel tour là che sono molto ancora più sciolto sul palco rispetto al passato. È un percorso che, vabbè, adesso ho 42 anni, quindi ovviamente uno... Sei un ragazzino, ricordiamo che sei un ragazzino. No, però nel senso che appunto a 42 anni uno o entra in confidenza con se stesso, col proprio corpo, no? Oppure il tempo che passa a fare. Ti manca la parte underground, post-punk, insomma quello che facevi con le band, ogni tanto magari per rilassarti lo fai ancora a casa? Diciamo che parte di quell'attitudine c'è sempre quando faccio musica, cioè quando ti dicevo prima quello fatto di buttarsi a fare le cose un po' più sperimentali, sentendo poi il disco nel suo complesso lo senti che c'è ancora quello spirito lì, e a volte anche nel live, no? Anche se è virata più su una dimensione più elettronica, no? Però io nella mia testa leggo sempre, diciamo, quello che è stato il mio trascorso appunto più indie, post-punk con certo elettronica, non so perché, ma nella mia testa quella ad esempio che è uscito fuori dalla cultura dei rave fine anni 80 aveva un legame con la controcultura punk, capito? Anche se era diverso il suono, diverso il contesto, diverse le sostanze e tutto, però io mentalmente leggo sempre, non so, una musica che in qualche modo vuole forzare un po', no? Certi limiti, certi linguaggi, una musica che si concede libertà di manipolazione, però nel fatto di fare proprio della musica di quel tipo lì di nuovo, in realtà più volte mi sta venendo il pensiero ultimamente. Quindi chissà, magari nei prossimi anni c'è una nuova svolta, insomma, no? Ma guarda che veramente è possibile, nel senso che siamo completamente aperti a tutto, ce lo siamo detto, potremmo veramente farlo. Allora noi aspetteremo, vedremo cosa succede, e se succederà io mi ricorderò di questa intervista e dirò ecco, certo, me l'aveva detto. Ricordate. Io ti chiederei un'altra cosa, una cosa che mi ha colpito appunto vedendo anche il tuo live, la parte visuale è una parte molto importante, mi sembra, quando sei sul palco. Come lavorate anche a questo? Sì, sì, assolutamente. Io man mano ho sempre più delegato, devo dire, però ci metto sempre un po' il becco. Quindi, ad esempio, non so, ci sono dei paletti, tipo che quando ci sono le parti strumentali non mi interessa che veniamo in accomodo illuminati dai musicisti, se non in retro illuminazione, diciamo, perché voglio che la gente si concentri soprattutto sul suono, appunto, su questo insieme. Il palco diventa un qualcosa, no, di un visual gigantesco, no? Non ho grande amore per i visual in generale, li abbiamo in questo tour qua, ma sono molto astratti, sono più un gioco che va a completare quello delle luci, perché sennò la gente si distrae parecchio a guardare uno schermo, l'ennesimo schermo che vede già tutto il giorno. Per il resto ho trovato le persone giuste con cui lavorare, si va per sottrazione, quindi non troppi colori alla volta, non troppo pasticcio. Il problema mio è che purtroppo performando non sono mai riuscito ad avere lo spettacolo nostro da sotto. Quindi mi viene un nervoso perché vorrei veramente vedere tutto il live lì. Oppure sì, dovrei fare il live accanto al tecnico luci, guardando il palco. Così, cioè cambiamo un pochino le cose. Pensaci, no, per realtà, stasera magari. Ho fatto fare delle riprese una data del tour dei club quest'anno, perché io voglio tutta ripresa, un intero live, perché poi me lo voglio vedere cosa mi ha fatto. Insomma, io sono molto curiosa di vedere il live di stasera, perché ricordiamo appunto che sarai al Parco delle Caserme Rosse a Bonsai, e quindi insomma mancano poche ore a sentirti. Sarà molto emozionante. Anche per noi, sono sicura. Ricordo ancora appunto il Balena Festival. Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Ti chiederei se hai voglia di scegliere una canzone per chiudere l'intervista, e anche se c'è qualcosa che vuoi dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Allora, un'altra canzone per chiudere, Momenti, del disco nuovo sempre. E a tal proposito, per lasciarvi con una cosa, ecco, in questo pezzo, diciamo che è uno di quei pezzi in cui esprimo tutta questa esigenza, che spero di essere, che sia condivisa, godere proprio il momento, no, che si sta vivendo. Ad esempio, qualcuno, se viene, chi verrà al concerto, vedrà che prima del live c'è scritto: durante il concerto lascia il telefono in tasca e goditi il momento. Che lo stiamo facendo dal tour dei club di quest'anno, cioè non militarizziamo i live, ovviamente non è che viene cacciato, chiuso il telefono, però ecco, inviterei le persone che vengono a godersi davvero il concerto così, senza il telefono, e notare la differenza nell'essere presenti. Nella canzone, tra l'altro, mi è venuto in mente che è una canzone, dico, ma non l'avevo pensato per i telefoni, però ci quaglia. Mi godrò ogni singolo momento per poi lasciarla andare e poi ricominciare. Cioè, nel senso che bisogna anche saper lasciare andare i momenti. Abbiamo questa ossessione nel tenerli i momenti, no? Quindi mi faccio un filmato così mi rimane, ma in realtà non rimarrà mai quel momento lo stesso. Cioè, quello con cui dobbiamo far pace è il fatto che se ne va tutto. Quindi dobbiamo salutare il momento e ricominciare, cioè prenderci un altro momento e goderci quell'altro ancora. No? Ci impegneremo per farlo stasera. Io sicuramente no. Sì, te lo prometto. È il mio viaggio. Diciamo. Ah, ma io lo condivido molto, quindi io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e ricordiamo che ci vedremo stasera. Grazie. A voi. Ciao a tutti.